Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. I want another first kiss, I said. Kiss, she said, I want another first kiss like this. I want another first kiss. Voglio un altro primo bacio. Beh, se si potesse, Drago. Sì. Il primo bacio è come all'asilo, come la, no, però dai. Come la prima sigaretta. Sì. Al come mattino, la, sì, bello, buono. Quello del mattino, sì. Oppure la prima volta che vedi una cosa che ti che piace. Che vedi una modella che cammina a sculettà, ti piace quello. Oppure vabbè, la prima volta che il primo sorso di birra. Vabbè, no? Quello è il libro di quel Delerme stucchevole sulle prime volte. Che poi, tra l'altro, il concetto di prima volta come una cosa positiva. Cosa? E la puoi applicare giusto al bacio, se vuoi. Oppure ma no, ma la vita dei bambini è fatta di prime volte. Però, Drago, appunto, il primo giorno di scuola, scusa, è bello. Il primo giorno di scuola alla fine è bello. Ma no, moltissimo. Ma perché? Il primo giorno, non so, aspetta. Anche la prima fetta di salame, non ci hai mai pensato? Quando lasci il salame nel frigo, no, vabbè, che è cominciato, no? Se non gli metti subito il Domopak, la stagnola. Il film estensibile. Ma come parli? Vabbè, parli un come... po'. Ma c'era allora, se lasci il salame tagliato a metà così nel frigo, e poi qualche giorno dopo hai voglia di nuovo di mangiare il salame, la prima fetta non è buona, devi darla via. O al gatto la butti via, è giusto? È un po' nera, no? Perché diventa un po' irrancidita, perché ha preso aria, no? Anche il formaggio succede. Succede anche il formaggio, però il formaggio a volte è buono così, nel senso che un po' di muffina fa bene. In effetti anche il primo bacio potrebbe essere anche tipo capitare come fosse la prima sigaretta o il primo sorso di birra, però a volte il primo bacio potrebbe essere anche come una prima fetta di salame, eh? Cioè se ti va male. Eh sì. Se tipo lui o lei che baci. Sì. Ci va un altro che baci prima e dopo porti via quello, porti via la fetta di salame. Eh sì. Quindi la prima fetta di salame, cattivo. La prima sigaretta al mattino, bello. Bellissimo. Drago. L'ho visto Caronte. Come sta? Mi ha detto, di nuovo qui lei. E io ho detto, ogni tanto capita, ci si rivede. Stia attento, non venire troppo spesso. Non la fai mai tutta la traversata. No, tutta la traversata e poi ritorno. A un certo punto stai indietro. È bellissimo. E ti vuole bene Caronte? Eh sì, ormai. Salutiamo. Sicuramente ci ascolta. Ciao Caronte. Ciao. Un po' più di entusiasmo, bravo. Caronte. Cioè. Ciao Caronte. È mio. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? E ora bambini, ricreazione. Bambino Albert Camus, ma sempre con quel piede rotto. Vabbè, adesso scusa. Basta, scusa. Camus chi? No, Camus. Albert Camus. Camus. Quello vedi, che ha scritto... lui lo sa dire, non è come i romani che dicono Camus. Camus è sbagliato, Camus è giusto. Giusto. Quello U. Che ha scritto lo straniero, la tu peste. Sai dire la U? La U? La U sì, Camus. Tutti milanesi. Però sempre comunque, con quel piede rotto, dai. Comunque su. Il piede rotto. Non è che io posso rimettermelo a posto da solo, eh? Portando il gesto si aggiusta. Per quanto tempo? È un mese. Un mese. Minimo un mese. Ma senti, ma come fai a vivere così? Cioè, un bambino della tua età con l'argento vivo addosso, costretto a girare con le stampelle. Appunto, è una tortura. È una pena. Ma come fai a giocare, per esempio? Non gioco. Come non giochi? Vabbè, videogames a stecca tutto il giorno. Videogames. Space Invaders. Ma quali? È quello vecchio di mio padre. Ah, eh. che è rotto poi. Ah, è rotto. Non funziona il joystick. Cioè, ogni tanto funziona, ogni tanto no. E quindi? E quindi non riesco mai a finire una partita. Vabbè. E per le altre cose, a parte giocare, le cose più pratiche, tipo fare la doccia, ma come fai? Non si frega, non si fa, i bambini che fanno la doccia. Ah no, cosa fanno? Mi aiutano, no? Mi faccio aiutare dai miei. E il gesso non si bagna, scusa. Ma allora, mia mamma me lo avvolge in un sacchetto della spazzatura, fin sopra il ginocchio. Poi mi mette una seggiolina nel box doccia di plastica. Io mi siedo sulla seggiolina e tengo fuori la gamba, perché deve stare un po' in alto. Appoggiata su un'altra seggiolina. Ma come, fuori dalla doccia? Sì. Ma allora poi fa da grondaia e l'acqua che ti casca addosso attraverso la gamba che è fuori dalla doccia va a finire tutta nel bagno, laghi tutto. Sì. Vabbè, quello non è un mio problema. Lì c'è la mamma per quello, poi ti pulisce. E poi chi ti veste? La mamma? No. No, mi aiutano, però vado sul letto, mi sdraio, alzo le gambe e cerco di filare il pantalone. Che da una gamba entra tranquillamente, ma dall'altra fa resistenza, no? Perché il gesso, sul tessuto e poi c'è il gabbone, no? E chissà come mai. Quindi a fatica mi metto i pantaloni. Vabbè, ma comunque non sei mai da solo, quindi diciamo sei sempre aiutato, giusto? Insomma, non sempre. Perché, vabbè, la mattina sono all'asilo che mi portano e mi lasciano lì. Quindi il pomeriggio però sono praticamente solo, perché mio padre è a lavorare e mia madre c'è, però è sbronza. Ma come sbronza? È il porto, no? Ma già, è vero. E quindi sono lì, lei mi lascia su una poltrona e io non riesco più a muovermi. Se devi fare la pipì, non so, la cacca, come fai? La cacca, quando la mamma dorme, no, non la posso fare. Ah, la tieni? Fino a un certo punto sì. No, è superato quel certo punto. Ma no, è quello che è la cosa interessante. Dai, lui sulla poltrona con la gamba rotta, appoggiata sulla seggiolina. Ma perché non chiami tuo fratello? Quello non è un problema, la cacca. Prendo le stampelle, vado in bagno e mi siedo. Si può fare, ho capito. La pipì è più difficile. La pipì è più difficile, però è sempre un problema della mamma quello lì. Sì, la mamma. No, perché è perché sto su una gamba. Ma io sto su una gamba sola, no? E quindi magari, cioè, non è che sono stabile. Magari la faccio un po' fuori dal vaso. Ma senti, ma puoi sederti, tra l'altro, per farla. Come fai la cacca, ti siedi e fai la pipì. Ma voglio dire, non puoi farti aiutare da tuo fratellino se tua mamma è KO? Ma mio fratello, cioè, glielo chiedo, dico: per favore, mi porti un bicchierino di coca? Sì, sì, adesso arrivo! E poi non arriva mai. E sta di là, io so che traffica con i suoi giochi. Non mi aiuta nessuno. Senti, ma allora non ti resta, inganna un po' il tempo, non so, magari scortecci un ramo e ne fai un bastoncino, che è sempre un bel gioco. No, dai, poi mi faccio male. No, perché sbaglio sempre a tenere il coltellino. E quindi ti fai male e diventi cieco. Ma cosa c'entrano gli occhi? Sì, è cieco. Ma no, al massimo mi faccio male alle dita della mano sinistra. No, è perché il piacere solitario rende sempre ciechi, capito? Scortecciare i rami è una cosa che rende. Ma tu non ascoltarlo, bambino Alberto, perché dice delle cose che capitano a lui, che invece di diventare cieco è diventato sordo a furia di scotennarsi. Cosa? Il bastoncino. E i nostri ascoltatori hanno rotto l'indugio, invece di mandarci le quartine le hanno scritte, suonate, cantate, incise, come questa, questo blues fantastico di Tony Landolfini. No, ma quale Landolfini? L'anolina. Tony Landolina. Grazie Tony, è un bellissimo blues, sentiamo questo blues. Blues. Contro le angosce di un futuro incerto, un solo il bambino Alberto. Chiedo asilo. Sì, perché vedi, questo è un vero blues. Oh no, questo è il diavolo che canta. Questo è il primo bambino, è il primo blues. La fetta. Quella di Robert Johnson, proprio. Sì, non è la mano sinistra. Sì, è il primo blues questo. Mano sinistra del diavolo. Esatto. Che è un po' la mano straniera. Quando ti viene un ictus che non puoi più usare la mano, sì, quella. La mano straniera. Ti viene il diavolo della mano straniera. No, mano straniera, dai. Vai, Tony. Tony Landolfini. Sì, che lui suona anche l'armonica. Sì. Ma dove sono le strofe? Che canta? One man band questa, no? Non c'è niente. Perché non vogliono scrivere le quartine, quindi piuttosto fanno montano assoli, su un blues. Quegli stessi assoli che si fanno da 50.000 anni. Tutti più buoni, tutti più carini. Grazie, Tony Landolfini.